reportage. Fare impresa con Erasmus. All'estero ci va l'imprenditore. Di Silvia Bernardi. La diffusa e persistente crisi economica gioco forza ha portato alla ribalta storie di imprese costrette a chiudere, di lavoratori in cassa integrazione o peggio ancora senza più un impiego. Che fare? Guardarsi attorno e ripartire. Come? Magari andando 6 mesi all'estero a spese dell'Unione Europea, ospiti di un'azienda già avviata dove fare pratica e mettere a punto quelle competenze necessarie per far decollare un'attività in proprio. Per fare tutto questo esiste il programma europeo Erasmus per giovani imprenditori. Non ha nulla a che vedere con gli studenti che girano le università europee, riguarda invece i nuovi imprenditori che hanno da poco avviato un'impresa e vogliono scambiare competenze e progetti con professionalità analoghe di altri paesi. Così i protagonisti di questo programma europeo al posto dello zaino hanno la 24 ore con dentro un progetto imprenditoriale. Simone Galati è un agronomo di Catania che è andato in Grecia, a Corinto, dove ha imparato come si progetta e gestisce un'impresa biologica di allevamento di lumache. Io ho elaborato un business plan per Erasmus che riguarda un'azienda biologica chiamata Valle dell'Etna e svilupperò una fattoria didattica comprendendo sia l'agricoltura sia il sociale, cioè dire diffondendo educazione ambientale, nello stesso tempo facendo dei prodotti biologici e far vedere, apportare le giuste conoscenze agli altri su che cos'è l'agricoltura biologica effettivamente. Il meccanismo è semplice. Per partecipare, gli imprenditori devono presentare un business plan completo e registrarsi sul sito web del programma, indicando il settore di attività e l'area geografica di interesse. A questo punto entrano in gioco le organizzazioni intermediarie, 100 in tutta Europa, che valutano i business plan e accoppiano i giovani con gli imprenditori che hanno dato la disponibilità a ospitare. Il soggiorno all'estero può durare da 1 a 6 mesi. Gli intermediari finanziano gli imprenditori in Erasmus con un contributo mensile variabile a seconda del paese scelto. Si va dai 560 euro di Bulgaria e Romania ai 1100 della Danimarca. Allo stesso tempo, l'obiettivo è chiaro: favorire lo sviluppo di impresa e offrire alle piccole e medie imprese la possibilità di svilupparsi a livello internazionale. Sono infatti le PMI che creano più dell'80% dei nuovi posti di lavoro in Europa. Credo che questo programma vada promosso maggiormente, specialmente in Grecia, con questa crisi economica. Dovremmo proiettarci maggiormente all'estero, non pensare solo a livello locale. Questo programma può aiutare le piccole e medie imprese a crescere a livello europeo. Maria Vlaciu è l'imprenditrice greca che ha ospitato il giovane imprenditore siciliano. Entrambi ci hanno guadagnato. Maria ha avuto a disposizione per 6 mesi il bagaglio culturale di un agronomo e Simone ha avuto la possibilità di trovare sul campo competenze teoriche e affinare il progetto della sua impresa. I giovani imprenditori non sono quindi in visita, ma lavorano a tutti gli effetti nell'azienda che li ospita, con l'obiettivo di imparare i segreti del mestiere e avviare la propria attività. Alla Ferreikos io mi applico per fare delle analisi degli allevamenti, analisi agronomiche, pratiche, perché no, poi anche delle analisi sul mercato, sul business degli elicidi e sul mercato internazionale, promuovendo perché no il prodotto con dei presidi e delle certificazioni in quanto prodotto biologico. Ad oggi sono circa 3.000 gli scambi tra imprenditori, Italia e Spagna sono tra i paesi più richiesti. C'è chi sta sperimentando il social media marketing e chi si è lanciato nel settore della birra artigianale. I servizi sono al top della classifica, ma l'agricoltura è forse uno dei settori in cui lo scambio di competenze e la giovane imprenditoria meritano di essere ancora di più promossi, come dice l'europarlamentare Paolo De Castro della Commissione per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale. Sicuramente una grande opportunità per le imprese agricole e alimentari, non solo quindi le imprese in genere manifatturiere, ma anche quelle del settore agroalimentare. Erasmus per le imprese significa sostanzialmente dare le opportunità ai nostri giovani imprenditori di poter approfittare di un periodo presso un'analoga impresa dello stesso settore in un altro paese dell'Unione Europea per poter vedere come vengono affrontati e risolti i problemi, gli sviluppi, le opportunità che questo settore ha nei vari paesi. È un'opportunità importante perché non tanto si si rende conto in maniera diretta quelle che sono le caratteristiche distintive delle varie aziende nei vari paesi europei, nei rispettivi settori, ma è anche un'opportunità di crescita professionale, perché indubbiamente crea un orizzonte europeo, un po' come l'Erasmus per gli studenti, che dà effettivamente una grande utilità di conoscenza e di comprensione un po' delle strategie che i diversi paesi, a volte anche competitor, hanno nei vari settori. Quindi ritengo l'aver esteso l'Erasmus, che è uno degli strumenti che ha dato più successi e ha più contribuito a creare una coscienza e una cultura europea, e l'Erasmus delle imprese possa effettivamente dare un contributo anche in questo settore, che certamente ha bisogno di soprattutto per noi italiani, spesso le nostre imprese un po' più provinciali, se vogliamo, hanno bisogno di guardare con esperienza, ma anche traendo un po' delle opportunità che tanti nostri colleghi di altri paesi possono darci, e questo credo sia davvero una bella opportunità che mi auguro i nostri imprenditori, giovani imprenditori agricoli e alimentari, potranno approfittare. Tre i punti di forza del programma: l'essere transnazionale, l'avere come obiettivo la creazione di imprese europee e non solo nazionali, e di far circolare le idee e i progetti. Dopo 6 anni di scambi tra imprese e imprenditori, è il momento di fare una revisione al programma, vedere cosa ha funzionato molto bene, cosa va migliorato e il futuro che lo aspetta. Lo facciamo con il segretario generale dell'Unione Europea delle Camere di Commercio a Bruxelles, Arnaldo Abruzzini. Ciò che ha funzionato molto bene è sicuramente l'idea. L'idea che si possa costruire una rete di scambio di esperienze e di formazione sul campo, fatta direttamente dagli imprenditori verso coloro che vogliono diventare imprenditori in Europa, è un'idea che sicuramente ha preso moltissimo nell'immaginario collettivo. E i numeri ci confermano questa cosa. Noi ormai viaggiamo al di sopra delle 10.000 registrazioni al programma da parte di tutti i paesi membri dell'Unione Europea. Sicuramente i risultati, quindi non solo in termini di appetibilità del programma, ma anche in termini di risultati successivi all'esecuzione del programma di formazione Erasmus, sono molto soddisfacenti, perché parliamo di imprese che nella maggioranza dei casi hanno appreso nuove tecniche di produzione di beni o servizi, che hanno incrementato la loro cifra d'affari laddove fossero già stabilite, e che comunque hanno tutte quante trovato delle nuove opportunità di business negli altri paesi europei attraverso canali di distribuzione e commercializzazione o attraverso nuovi partners. Quindi il successo dell'iniziativa è data dai numeri, e questo credo che faccia parte del successo di tutte le iniziative che portano il nome di Erasmus, che sono sicuramente uno degli strumenti più riconosciuti e riconoscibili della costruzione della nostra integrazione europea. Certo, è un programma complesso da gestire, perché è un programma costruito su una rete di operatori. Quindi, secondo me, come abbiamo peraltro già suggerito alle istanze europee, ci sarebbe bisogno di rafforzare il lato finanziario di questo programma, che ha una dotazione abbastanza minima, devo dire. Quindi aumentando le risorse finanziarie si aumenterebbe anche la potenza di fuoco di questo strumento. Ma in secondo luogo, che probabilmente è ancora più interessante, combinata all'aumento della disponibilità finanziaria, è quella di inserirle nei percorsi, per esempio, della garanzia giovani. Quindi noi abbiamo da un lato una serie di attività che vengono messe in campo dagli Stati membri per combattere la disoccupazione, soprattutto quelle giovanile, e abbiamo uno strumento che già esiste, che già funziona, che ha già dato prova di sé sul mercato, che di fatto raggiunge gli stessi obiettivi. Quindi perché no utilizzare questo strumento all'interno di quei meccanismi? Questo, secondo me, che ancora non è stato fatto, potrebbe essere una chiave di volta sia per il programma in sé, sia per raggiungere gli obiettivi della garanzia giovani. Quindi, per concludere, quale sarà il futuro del programma europeo Erasmus per giovani imprenditori? Il futuro in questo momento è brillante, nel senso che il programma si è deciso nella nuova programmazione finanziaria di rifinanziarlo, quindi di dotarlo di una nuova disponibilità finanziaria per i prossimi anni, e il programma partirà proprio in questi mesi nella sua fase successiva. La decisione di inserirlo all'interno delle garanzie giovani e quindi dei 3 miliardi di euro che sono a disposizione per gli Stati membri in prima battuta per far fronte alla disoccupazione giovanile è una decisione che non può essere presa solamente dalla Commissione europea, ma deve essere realizzata e implementata dagli Stati membri. Quindi il futuro è che nei prossimi mesi Eurochambre, in quanto organizzazione di coordinamento del programma, avvierà una fitta rete di colloqui con i governi degli Stati membri per indurli a utilizzare uno strumento come Erasmus per giovani imprenditori che, come ho detto prima, già esiste, già ha dato prova di sé e ha dei risultati eccellenti. Euro Reportage in collaborazione con Euronet Plus.